Allora, Katia, qua c'è un discorso che va avanti da qualche mese tra noi appassionati. Ci sono rumors, ci sono chiacchiere, ci sono cose che dicono che finalmente dopo i Knicks ci sarà un'altra grande squadra NBA che torna a Milano il prossimo autunno, maglia bianco-verde, un trifoglio che l'accompagna nel simbolo. Arrivano i Boston Celtics. Ma è una descrizione che non mi ricorda nessuno, sai, devo Ah dirti la verità. No, no, questi colori no, no, non mi io. tornano. Ah No, no, lo no, dovrete Katia. scoprire, non posso svelare tutto. Ci sarà sicuramente una grande partita, Ah, ecco, questo è già importante. assolutamente, che fa parte del Tour Europe Live, quindi con altre tappe europee, e l'Italia sarà una di queste privilegiate scelte, per cui poi ne saprete di più sicuramente a brevissimo. Quindi ci lasci sfogliare il trifoglio. Assolutamente sì, se sarà il trifoglio.